con l'artista Gonzalo Borondo per parlare della sua nuova installazione Non Plus Ultra, che sarà al Macro Asilo a Roma dal 16 al 18 novembre e poi all'ex Dogana dal 30 novembre al 30 dicembre. Gonzalo, ben trovato. Salve, buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Ci presenti la tua opera? Certo, allora prima di tutto volevo ringraziarvi perché siete probabilmente l'unica radio che ascolto a Roma, quindi mi sento molto onorato e contento di poter parlare con voi. E poi niente, questa è un'opera comunque realizzata insieme a 56 Fili, lo studio serigrafia Master Strike, e niente, abbiamo realizzato tutte queste lastre di vetro che creano una sorta di labirinto ordinato di riflessi attraverso la serigrafia, dove un po' le persone possono percorrere questo spazio. E diciamo che trovo un po' l'opera parla soprattutto del concetto di limite, no? E un po' dei limiti imposti, dei limiti mentali, dell'andare oltre i limiti. Ma essendo un'immagine, non vorrei neanche io imporre il limite delle mie parole a chi venga a vederla, per cui a volte le parole condizionano e preferirei lasciare un po' aperta l'interpretazione di ognuno. In questa fase il vetro è una materia che prediligi. In che rapporto sei con i vari tipi di supporto, con le varie materie? Beh, a me piace comunque adattarmi sempre a ogni luogo, a un materiale, e quel materiale è un po', mi interessa, diciamo, il dialogo col paesaggio e con il contesto. Quindi, così come ho lavorato sulle palle di paglia o insomma tanti materiali diversi, il vetro probabilmente è uno dei miei preferiti. Basicamente ho cominciato a lavorare sul vetro tantissimi anni fa a Madrid, quando comunque la polizia aveva un regime molto stretto, molto duro, e io non riuscivo più, cioè avevo già le multe accumulate e tutto quanto, quindi non riuscivo a intervenire nello spazio pubblico, che è, diciamo, un po' il luogo dove io mi ci sento a mio agio, no? E quindi niente, mi sono inventata questa tecnica, praticamente dipingevo di bianco e poi andavo giorno dopo con delle forchette o pettini così e levavo la vernice. Ma quando arrivavano i vigili, io oggettivamente non stavo facendo niente che andasse contro la legge. Quindi qua, lì è nato, ci già parliamo 2010, una roba del genere, questo rapporto mio col vetro che poi ho continuato a sviluppare, a trovare pochi limiti dentro di quello che sembra di avere, no, questo materiale. Sì. Nel tempo, a proposito di spazi pubblici, hai realizzato anche grandi murales nelle maggiori città europee. Europee, pure fuori dall'Europa, sono stato quasi 5 anni tirando in continuazioni per questi eventi di arte pubblica o arte urbana. E sì, la verità è che comunque sin da piccolo l'intervenire nello spazio pubblico era un po' la mia, diciamo, priorità, no? Mi piace questa idea che l'arte non sia una cosa chiusa, alcuni spazi molto diciamo chiusi soltanto per l'arte, e che alla fine diventa una cultura snob per pochi, no? Quindi Sì. mi piace l'idea che l'arte venga molto in relazione con la vita, no? E quindi lo spazio pubblico è non solo, diciamo, ci sono tanti spazi, però è spazi un po' dove l'arte coesiste o dialoga direttamente con la vita e con le persone, no? Che abitano i luoghi. L'ex Dogana è un luogo in cui negli ultimi anni stai lavorando. Ecco, ci racconti un po' anche di questa tua predilezione? Allora, il sud di Lugano è un posto dove, diciamo, mi hanno dato fin dall'inizio uno studio, e diciamo che è il luogo dove lavoro, cioè il mio studio qua a Roma. Però la verità è che l'opera in questo caso l'abbiamo sviluppata direttamente qui al Macro, nel cortile, cercando pure un po' di avvicinare al pubblico al processo serigrafico, no? Che la gente lo conosce molto per le magliette, le cose, però comunque è un processo che si può sviluppare in tante altre superfici e in tanti altri modi molto meno convenzionali o soprattutto senza uno scopo soltanto commerciale, no? Gonzalo, a proposito dell'arte in grandi spazi aperti, ci sono degli artisti che apprezzi, a livello internazionale? Certo che ci sono, se parli un po' di quelli che diciamo vengono messi nel contenitore della street art, ci sono dei grandi artisti, per me soprattutto un po' quando tutto questo è cominciato, prima di questo boom dell'artista mercenario della gentrificazione, c'erano in Spagna grandi artisti come Eschif, Blue, qua in Italia, Sam 3, insomma c'era tutto un giro di artisti che utilizzavano lo spazio pubblico per dialogare o per pure mettere in mostra dei problemi. Diciamo che al giorno d'oggi è diventata una cosa molto più mainstream e più estetica, sì. Però se devo dire sono ancora molto, diciamo, d'accordo con quei principi, no? Che prendevano lo spazio pubblico come luogo di tutti, la riproduzione di questo, ma non soltanto in un modo magari estetico, se non critico. Poi paradossalmente io mi interessa più lasciare una traccia poetica e non tanto politica, però apprezzo a quelli che sono andati, diciamo, prima di me e i messaggi che hanno lasciato, che probabilmente mi hanno portato a questa strada. Sì, sì. Nel tuo lavoro preferisci essere da solo e lavori anche in compagnia? Dipende, nel senso, quando lavoro sui muri mi piace avere un po' il gioco soltanto nelle mie mani, diciamo, no? È una, sì, cosa molto più intima nella pittura. Però poi in processi più istrativi come questo che abbiamo realizzato qui, alla fine è una cosa molto collaborativa e in alcuni casi mi è piaciuto pure coinvolgere bambini o gente del luogo, almeno in alcune parti del processo, in modo che poi l'opera che venga realizzata appartenga pure un po' ai cittadini, no? E che non venga soltanto come un'imposizione al muro di fronte a casa sua, se non che in qualche modo resta pure qualcosa di loro dentro alla storia di quel muro. In questo modo, secondo me, si agisce sulla memoria, no? E questo è fondamentale, no? Può sentire lo spazio pubblico come spazio di tutti, sì, e non solo spazio di passaggio, soprattutto al giorno d'oggi che tutti andiamo guardando uno schermino e non cosa accade attorno. Nel corso dell'anno pratichi delle residenze in giro, ti sposti parecchio? Sì, la verità che a Roma ho cari amici, ho uno studio, ma non vengo tantissimo spesso. Però la verità che come base mi piace, cioè alla fine a volte me ne voglio andare, ma poi la verità è che poi mi manca. Quindi penso che è una cosa che appartiene a tanti di noi. E quindi sì, la verità è che sto quasi tutto l'anno fuori in giro, non mi fermo quasi mai, purtroppo, per fortuna. Per fortuna, però, direi. È sempre bello, insomma, fare incontri e girare luoghi. Sì, quello è vero, però ogni tanto avere un posto dove sentirti, che ne so, la casa tua, no? Un posto fisso, sì, sì, pure, sì, manca, no? Diciamo, questa vita pirata ormai l'ho scelta io, quindi sono miei. Gonzalo, ci lasci anche i tuoi riferimenti web per seguire il tuo lavoro? Certo, allora io c'ho un sito che è www.gonzaloborondo.com, sì, semplice. E poi c'è un Facebook, però la verità è che non lo seguo neanche io e non sono molto presente sui social, anzi non so molto bene come funzionano. Però insomma, penso che sul mio sito, almeno fino a un anno fa, c'erano i lavori e sono, non è molto aggiornato, diciamo, okay, però, okay, però si possono vedere con calma. E allora ricordiamo la mostra Non Plus Ultra di Gonzalo Borondo al Macro Asilo dal 16 al 18 novembre e all'Ex Dogana, sempre a Roma, dal 30 novembre al 30 dicembre. Gonzalo, è stato un piacere, a presto, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie mille a voi e niente, tutto a posto. Speriamo a presto, dai. Speriamo a presto. Ciao.